la nascita di Lutero a fine del 400, poco vicino all'inizio del 500, avviene in un'epoca del tutto particolare per il mondo tedesco, di cui Lutero sarà uno dei massimi e più efficaci leader e ispiratori. La Germania di fine del 1400 e fasti, e un po' prima dell'inizio del 1500 e qualcosa, è una nazione abbastanza coesa, ma che ha bisogno di cercare la sua strada. Lutero è un giovane, geniale e coraggioso, e ce n'è anche alcuni più geniali di lui. La Germania di fine 400 e inizio 500 è un paese in cui gli intellettuali puntano, o almeno sperano, per una ondata di rinnovamento, quello che noi italiani chiamiamo un risorgimento. E effettivamente molti membri dell'intelligenza e anche della classe feudale pensano che sta piano piano arrivando in Europa il momento giusto della Germania. È stato in parte un'illusione, ma anche con risultato quanto mai interessante. Alcuni intellettuali che non posso emendarli e non posso citarli tutti quanti, ritengono che si deve fare in qualche modo un rinascimento della Germania. Per questo alcuni tedeschi, di cui parlerò poco, perché non condivido le loro opinioni, alcuni vorrebbero, strano a dirsi, trovare un modello italiano. L'Italia di quegli anni è divisa, ricca di intellettuali e di bugiardi, solo di quell'epoca lì, dopo non è mai più stato così. Quindi ci sono alcuni intellettuali, tutti quanti giovani intellettuali tedeschi, i quali ritengono che la Germania, per svilupparsi, deve, diciamo, svilupparsi a sinistra. Loro non usano parole di questo genere, ma vogliono questo. E allora presentano anche opinioni che non vi presento quest'oggi, ma criticano duramente la Chiesa Cattolica e il Papato in varie maniere, ma desiderano che ci sia effettivamente un po' di rinnovamento. Il giovane Lutero però non si fa, come dire, non si fa accogliere e guidare da questi intellettuali che vogliono esattamente soltanto un rinascimento di modello italiano e poi modello politico un po' francese. Sono gli anni della guerra tra Carlo V e Francesco I di Francia, quando viene però abbattuto qui vicino, davanti a Pavia, e sconfitto da Carlo V, però questa è la situazione come. Martin Lutero non è il figlio di una di quelle famiglie che fanno la storia. Noi in Italia adesso ne abbiamo tanti, che Dio ci liberi il più presto, ma comunque, no, il giovane Martino nasce in una casa di contadini un po' benestanti nella zona nord-est della Germania, e guarda caso, vicino a dove adesso vive Angela Merkel, che aveva già capito che arrivavano le figlie di pastori, no? da quelle parti lì c'è quella famiglia, il papà di Martin alleva in modo rigoroso ma molto moderno i suoi bambini, li fa crescere, li fa studiare, e questi bambini, Martin soprattutto, Luther è il cognome, vero? Che cosa fanno questi ragazzi? Studiano, no? E Martin studia parecchio, e su questo gli arriva il suo primo incidente. Adesso ho dimenticato il nome della cittadina in cui vivevano, perdonatemi, ma Martin Luther è mandato a scuola dal papà e dalla mamma, che gli dicono: ragazzo, adesso studi. Lui effettivamente, è vero, è disposto a studiare, ma vorrebbe anche qualcosa di più. Una volta gli accade un incidente che vi farà ridere un po'. Deve tornare a casa dei suoi genitori, attraversa un campo o un bosco in cui piove terribilmente, poi c'è proprio una tempesta di acqua che gli fa paura in estate. Era un uomo medioevale, cosa fa? Ha paura di morire e grida: Sant'Anna, se mi salvi la vita mi faccio frate. Sant'Anna puntualmente salva la vita al giovane Martin, il quale, al seguito di questa decisione, diventa un frate, e in questo anche delle fortune, perché alcuni dirigenti del monastero in cui lui si inserisce, alcuni di questi sono personalità di altissimo rilievo, cioè c'è Sant'Anna, d'accordo, ma c'è anche un certo Staupitz, un uomo un po' più vecchio di lui è un ragazzo, un uomo che ha 20 anni più di lui, ma che gli insegna. Lui era quello che in Piemonte dice un Braufjöll, ma per dire un balengo, no? Ecco, però questo Staupitz, che dirige il convento dove lui va per volontà di Sant'Anna, questo qua gli dice: ragazzo, tu sei intelligente, devi metterti a studiare. Lutero, Martin, accetta, e a studiare, ha passato la vita a studiare, a combattere, a scrivere, come vedremo, se avrete pazienza, anche a predicare moltissimo e in modo molto efficace. Comunque lui lavora, è membro di un grosso gruppo di persone un po' meno giovani di lui, ma abbastanza giovane, e tutti più vecchi del convento, perché lui proprio entra in un convento, gli dicono: il Signore vuole che tu studi per davvero. Lui accetta questo, cioè il capo di questo che è in realtà un convento di monaci molto impegnati, Staupitz, che lo controlla, dice: Signore, ti ha dato il mandato di studiare, studia le cose di Dio, comincia per favore con la Bibbia, poi continui. Lutero accetta e si mette a studiare. Poi però lui va a vivere in una cittadina chiamata Wittenberg, che avrà un'importanza storica. Se trovate un tedesco, dite Wittenberg, diventate subito amici, perché a Wittenberg c'è un nobile tedesco, veramente nobile. Una parte dei nobili tedeschi all'Eromacht Balengo Gis, oppure dei malvagi, no? Invece capo di una comunità accoglie Martino tra i suoi collaboratori in una cittadina che ho già nominato, chiamata Wittenberg. Tutti i tedeschi sanno, Wittenberg vuol dire realtà libera, realtà seria, ecco. Questo leader, anche lui, che è un nobile che fa seriamente il suo mestiere, lo esorta a studiare ancora di più, e Lutero lo fa. Però c'è la prima crisi della sua vita. Lui si rende conto di non avere ricevuto in modo sufficiente la spiegazione su tutto il contenuto della fede cristiana, no? Ha avuto qualcosa, ma non ha avuto tutto. Allora si dedica, tra l'altro questo leader gli chiede molte cose, lui esegue anche sul piano culturale e sul piano spirituale, ma il giovane Lutero, geniale, si accorge di una cosa, che in questa grossa parrocchia di Wittenberg c'è tanta brava gente, ma pochissima cultura. E lui dice: io devo andare fino in fondo nello studio della parola di Dio. Questo si è inventato lui all'età di 25 anni, questa formula, lo studio della parola di Dio, e si mette a studiare. Aveva già studiato le teologie del Medioevo, le conosceva, tutte le altre cose, ma ha una, dicevo prima, una delle sue crisi, perché ha l'impressione che la fede in Dio non sia predicata abbastanza e non sia ricevuto neanche abbastanza. E allora si mette, studia di qua, studia di là, non vi faccio leggere tutti gli appunti che ho dovuto prendere, anche io ho avuto la mia crisi come Lutero, e si accorge che la fede è certamente molto importante, ma la fede ha come punto unico ed essenziale Gesù Cristo, crocifisso e risorto, salvatore e guida dell'umanità. E allora si mette a lavorare. Il suo lavoro ha un piccolo intervallo, perché lui ormai è un monaco, no? E allora il Staupitz, il capo del convento, gli dice: tu devi fare un lavoro. Il fratello fa il nome di uno più vecchio, di uno di 40 anni, e Lutero ne aveva 25, dovete andare a Roma. Ah sì, perché? Perché abbiamo una cosa da chiarire nella discussione che abbiamo con il Santo Padre, e allora voi due andate giù, raccontate lì cos'è che noi pensiamo e che facciamo. Allora i due partono, vengono a piedi come già al posto della città, da Wittenberg, tac tac tac tac, arrivano a Roma, una bella passeggiata a piedi, non c'è dubbio, no? E lì hanno un'esperienza, questo tocca anche a voi se volete diventare membri di una chiesa, no? Perché da una parte sono felici, vanno lì, vedono che c'è un sacco di persone che vanno in chiesa, a Roma, a quell'epoca, no? Ma si rendono anche conto che in 20 minuti vengono recitate 5 messe. Ecco, è un po' poco, né? Lì c'è qualcosa che non va. Però ci accade una cosa, la più importante nella vita spirituale del giovane Martino. I Romani gli fanno vedere la Scala Santa, no? E lui fa la Scala Santa, la sale con molta serietà e sente una voce che dice: il giusto vivrà per fede. Altra formulazione: il giusto, il giusto per fede vivrà, no? Sente questa voce. Salire la guerra santa è sempre un'esperienza. Io l'ho fatto, ma non ho sentito nessuna voce. Sono un valdese, evidentemente non ero al livello quella così. Però la voce Piera è mia moglie, la sua importanza nella mia vita, insomma, lui quando sale a piedi, ci siete mai stati? Io l'ho fatta, ma non ho sentito. Lui salendo sento una voce che gli dice: il giusto vivrà per fede. Adesso i tedeschi dicono: no, lui ha sentito il giusto per fede vivrà. Boh. Contente i tedeschi, conte le fumne. Comunque, il giusto per fede vivrà. Questo è un versetto del profeta Abacuc, capitolo 4, versetto 11. Spero di essermi ricordato bene. Però sente questo, una voce che gli dice questo, e per cui ha la sensazione di essere chiamato a qualcosa. Poi tornano indietro, lui e il suo accompagnatore, ma Lutero ha sempre in testa questa frase: il giusto vivrà per fede. No? E allora medita su tutto quanto, studia a fondo le parti più importanti del Nuovo Testamento, gli Vangeli, gli Apostoli, San Paolo, eccetera, eccetera, studia queste cose, ma la frase «il giusto vivrà per fede», girata come girata, rimane fondamentale per lui. Legge moltissimo e studia il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento per cercare e riuscire di farsi un'idea di qual è quella che noi chiamiamo la parola di Dio. Dio ha detto la sua parola tramite i profeti del Vecchio Testamento e gli apostoli del Nuovo Testamento. Ovviamente ha espresso il suo cuore attraverso il suo figlio unico, crocifisso e risorto, questo. Per cui ormai Lutero ha le idee chiare ed è contento. Però, come succede spesso anche per noi oggi, il diavolo ci mette un ditino. Un tizietto della famiglia, che poi darà il posto all'imperatore prussiano, degli Hohenzollern. Gli Hohenzollern sono una tribù tutta speciale, no, di nobili, e uno di questi è in una zona lievemente diversa da quella in cui vive Martin Lutero, ma questo signore ha bisogno di soldi perché deve pagare al Vaticano una cifra piuttosto grossa. Il Papa del momento dice, vabbè, senti, i soldi te li diamo noi, questo al tedeschino, i soldi te li diamo noi, però devi trovarne anche degli altri. Conclusione, succede che quasi tutti si mettono d'accordo per fare un'azione religiosa che abbia lo scopo di dare 10.000 o 20.000, come si chiamano le monete lì? Sesterzi? Non so, molto denaro, però in realtà questo denaro deve essere raccolto e andare a Roma, cosa normale, non di per sé non peccatrice, ma comunque un po' complicata. E allora un tizio di cui mi vergogno, ma ho dimenticato il nome, inventa la soluzione. Un tizio, un sacerdote tedesco, dice, ma teniamo presente che abbiamo un sacco di gente che non è né nell'inferno né in paradiso, sono tutti o sono morti o sono in purgatorio. Sono in purgatorio. Allora si comincia a discutere poco dell'inferno, ma molto del purgatorio. Allora bisogna fare in modo che per avere il purgatorio, che la Chiesa apra il futuro di quelli che soffrono così. E allora il denaro ottenuto con questi fenomeni un po' che ne venivano chiamati, c'era un nome, no? Le indulgenze. Le indulgenze, sì. Queste le indulgenze, la cosa riesce sostanzialmente bene. I domenicani che diventeranno poi nemici degli agostiniani, tra gli agostiniani Lutero c'era già, Questi assumono un certo tetzel, un pastison, nessuno di noi l'avrebbe assunto. Tetzel parla, invita la gente e dice: adesso dammi una monetina. Come la monetina fa din din nel mio cassettina. Nella cassettina, l'anima vola fuori del purgatorio e per i più sfortunati fuori dell'inferno. La cosa buffa è questa, che si dice sempre che nel Medioevo la gente aveva paura dell'inferno. In realtà questi tedeschi, non stupidi, erano seccati del fatto di come fosse difficile vivere nel purgatorio. Altri predicatori volevano mettere a tutti il terrore dell'inferno, e questo Tetzel invece no. Date una monetina e l'anima del vostro zio, vostro nonno, vostro papà, vostra moglie esce, la sua anima esce e siamo a posto. Non l'avesse mai fatto. Martin Lutero si scandalizza, discute con i dirigenti della Chiesa nella zona in cui viveva lui e vivevano anche le monetine, e Lutero rilegge la Bibbia di nuovo e dice: qui c'è un imbroglio, vero? Chiederò al Papa di modificare questo imbroglio. Martin Luther scrive una lettera a un Papa che, storicamente guardato, non era un angelo del paradiso, era Leone X, famiglia dei Medici, gran gente, ma una banda di ladder e Busiart, insomma, no? E allora comunque Lutero cerca di intervenire, di far capire: non è possibile questo commercio delle anime del purgatorio. Non la posso digerire proprio. E Lutero però pensa di convincere il Papa e fa un grosso scritto che a noi protestanti piace e a voi non potrebbe molto piacere. Fa un documento dicendo: queste cose qui non si devono fare, non si possono fare. Bisogna invece approfondire le sacre scritture. Non è sulla base della paura dell'inferno e soprattutto del purgatorio, non è quello che deve essere fatto. Bisogna predicare l'Evangelo di Cristo, cioè la pienezza dell'opera di Gesù di Nazareth, figlio di Dio, crocifisso, risorto e vivente nell'eternità. E quindi Lutero tenta di convincere il Papa e gli altri, e non vengo qui adesso a descrivere, ma non ci riesce. Lutero all'inizio, da buon contadino, dice che la chi avrà più filo farà un po' di più, però molti ascoltano Lutero e sono d'accordo in sostanza con lui. Ma il Papa, che è uno dei medici, no? Leone X, che non era un uomo perfetto, a dire la verità, insomma. A un certo punto, qualche anno prima, non si sa come, diventa padre di un bambino, vabbè, opera dello Spirito Santo, posso ammettere, ma insomma, queste cosine un po'... Poi la storia è sempre condizionata da queste cosine di questo tipo. Però il Papa scomunica Lutero e poi però dal Vaticano arriva una dichiarazione di guerra molto efficace in forma di preghiera. Ogni tanto noi credenti, quando vogliamo litigare, facciamo una preghiera per offendere un po' quegli altri che non capiscono. Vabbè. E allora il Papa, un medici, Leone X, scrive con l'aiuto di alcuni suoi aiutanti una dichiarazione un po' dura, in forma di preghiera. Cosa vuol dire? Com'è? Non so cosa vuoi dire. No. Ah, il cinghiale. Un cinghiale, signore, un cinghiale è entrato nella tua terra, no? Questo è un invito di battaglia, effettivamente, da parte del Vaticano e da parte di un buon numero, non dico buono, ma un numeroso numero di cattolici tedeschi, comincia l'attacco. Lutero viene processato a distanza, anche altri. I cattolici tedeschi in maggioranza rimangono fedeli al Papa, no? E Lutero sembra isolato. Il problema è che Lutero non è isolato per niente. Tutti i giovani fanno il tifo per lui, vero? E poi accadono cose che racconto per dovere di mestiere. Una buona parte dei giovani tedeschi decidono di sposarsi. Sono sacerdoti, dei giovani sacerdoti tedeschi si sposano, qualche volta con una suora, e vabbè. Lutero stesso dice che gli amici, i giovani amici, gli dicono: ma insomma, se non ti sposi ci sputtani tutti quanti, no? Cosa dice il grande Lutero? Beh, aiutatemi a trovare una fidanzata. Trovano il meglio, quella che diventerà sua moglie, e con cui realizzano tutti e due. Lei è donna di cultura, di stile, adesso il nome suo lo dimentico. Caterina von Bora, di Bora, sì. Era anche lei monaca, però appunto si chiudono i conventi. Sì, sì. Ah sì, molti conventi vengono... Non tutti. Comunque Lutero, senza volerlo, ha avviato una rivoluzione, perché anche per la mia generazione, giovanissima, insomma, ho solo 200 anni, insomma, ancora via, ma il cambiamento c'è, qualche volta un po' eccessivo, vero? Ci sono dei seguaci di Lutero che dicono: tu stai troppo indietro, vogliono fare la rivoluzione e cercano di farla, ma Lutero la trova un po' eccessiva, no? Dice, no. Vabbè, poi i luterani per 500 anni hanno continuato a fare lo stesso, fare modifiche, ma senza mai perdere la testa. No, io sono valdese, non sono luterano, però li trovo interessanti e bisogna un pochino anche conoscerli. Ci sono indubbiamente dei grossi problemi. Alcuni giovani teologi molto intelligenti vogliono però portare agli estremi la riforma che Lutero sta avviando, e Lutero si trova obbligato a condannarli. Un po' perché quel nobile che l'aveva aiutato già prima a Wittenberg lo consigliava a non esagerare troppo. Per cui, giusto o sbagliato che sia, Lutero non si lascia dominare dalla tendenza di fare tutto assolutamente. Peraltro alcune cose le fa, del successo di raccontare tutte queste cose qui. Lutero dice: i sacerdoti devono essere soltanto dei predicatori, dei pastori che curano le anime, che predicano sulla base della Bibbia, certamente, ma alcuni di voi, dice Lutero, stanno andando per strade piuttosto sbagliate e eccessive, e invece no, Lutero fino alla morte insegnerà che il pastore deve predicare e tutti i credenti testimoniare. Il pastore deve predicare soltanto sulla base della Bibbia, Vecchio e Nuovo Testamento. E lui questo l'ha dimostrato, ritengo che in questo avesse anche molto ragione, questo mi pare, mi convince un pochino, ma le grandi decisioni storiche esigono certe volte delle scelte. C'è dei seguaci di Lutero che dicono che Lutero non è abbastanza rivoluzionario, la rivoluzione la faremo noi. No, non ditelo al Partito Democratico, che non ne sto parlando. Altro argomento. Ma Lutero è consapevole nel dire: io seguo un compito che Dio mi ha affidato, ed è vero che gliel'aveva affidato, e basta. Poi i vostri figli, i miei figli, lui ha avuto vari figli, 6 figli, una parentesi, molti giovani sacerdoti subito si mettevano a sposarsi. E allora si attaccavano a Lutero: senti, siamo tutti sputtanati perché noi ci sposiamo e tu no. E allora la sua compagna gli dice: ma Caterina von Bora, ci hanno ragione, allora ci sposiamo. E effettivamente il ménage di Lutero con sua moglie è un modello ma non soltanto per il pastore, è un modello per chiunque voglia seguire la volontà della Bibbia, insomma, e la volontà che il Signore ha espresso con i discorsi di Gesù e con le parole dei profeti e i testi della Bibbia. Ci sono alcuni problemi piuttosto complicati, ma vi lascio adesso in pace. Alcuni principi tedeschi hanno deciso di appoggiare Lutero dopo che il Papa aveva detto il cinghiale è entrato nella Terra Santa, no? Vabbè, adesso ho detto una battuta così ho perso il filo, chiedo scusa. Molti appoggiano Lutero. Com'è? Molti appoggiano Lutero. Ah, sì, sì, moltissimi lo appoggiano, di sicuro molti sacerdoti diventano pastori, appunto, sposati in questo modo, ma non voglio annoiarvi, ma la Chiesa Cattolica organizza una dura campagna contro la pretesa riforma di Lutero. Il primo convinto della bontà di questa azione un po' dura è Carlo V. Carlo V, uomo spirituale, ma era l'imperatore, era stato Carlo I di Francia e poi Carlo V di Germania, ed è dell'imperatore della Germania, ufficialmente riconosciuto da tutti, e quindi lui vorrebbe che Lutero venisse messo da parte. Ma molte persone importanti e molti intellettuali si oppongono all'imperatore, dico: maestà, lei ha certamente ragione. Quando si vuole fregare uno gli si dice: lei ha proprio ragione, tuttavia dovremmo condurre questo cinghiale a diventare una pecora, aiutare un poco, no? E allora l'imperatore fa: bene, allora venite tutti da me a Worms, c'è la dieta imperiale, e vediamo come se la cava quello lì. Allora l'imperatore raduna tutti a Worms, è una città non enorme, i membri della dieta, no? La dieta è il parlamento mobile, i membri della dieta entrano in un grosso, a Worms città, un grosso masso di persone, c'è naturalmente l'imperatore, tutti i suoi vescovi, tutti i suoi nobili, eccetera. Però quando Lutero entra, perché Lutero ha un permesso di 21 giorni e l'imperatore è stato fedele, non l'ha fatto ammazzare, l'ha fatto scappare, ma arriva Lutero, passa davanti ai nobili spagnoli che sono stati creati dallo spagnolo Carlo I, ora Carlo V, imperatore tedesco, e Lutero e i luterani entrano in questa riunione e tutti gli spagnoli gridano in tedesco: Feuer! Feuer! Ti bruceremo, no? Lutero non ha paura. Lutero affronta, e questo sono noioso, ma è la cosa che mi commuove di più, affronta un serio imperatore, che aveva torto, secondo me, affronta quelli che vogliono bruciare tutti i luterani, no? Ma Lutero decide di andarsene, un ignoto se lo prende e viene nascosto da un'altra parte. La vita di Lutero è salvata da un gruppo di progressisti, li avessimo adesso sarei meglio, ma pazienza. E tra l'altro Carlo V mi piace un po', perché gli dice, Carlo V dice, ma devi accettare la santa fede. E Lutero risponde, da grande intellettuale qual era, non possum deponere conscientiam. La mia coscienza mi obbliga a predicare come predico, a vivere come vivo. Non possum deponere conscientiam. Faccio un po' di propaganda a me stesso. Il mondo moderno è morto in quel momento in cui un pretino, un po' cretino, dice all'imperatore, a un imperatore forte e intelligente, non posso deponere conscienza. E questo accade. Però gli amici di Lutero lo pigliano, se lo portano via e poi lo nascondono da qualche parte. E sto quasi per concludere, non illudetevi, e questi nobili che escono dal Parlamento dell'Impero e portano via Lutero, lo nascondono in un palazzo lontano, pieno di libri, dove lui passerà alcuni anni, indovinate un po', a fare che cosa? A tradurre la Bibbia in tedesco, lui, Vecchio e Nuovo Testamento, e nel giro di una settimana ha fatto tutta la traduzione, una traduzione geniale. Lui era un testardo, ma geniale lo era proprio, e poi lo rubano un'altra volta, cioè i suoi sostenitori, lo prendono, lo portano via su di un cavallo, eccetera, ma lui ha... Finto rapimento. Un finto rapimento. Finto rapimento, sì, sì. Ecco. La cosa va avanti molto a lungo, qualche piccola battuta. Sapete chi è il re che promette all'imperatore Carlo V di aiutarlo contro Lutero? Enrico VIII d'Inghilterra, che ha inventato la Chiesa anglicana e ha tagliato la testa a tutti i preti cattolici che trovava in Inghilterra. Oh, un caso nobilissimo, eh? Eccetera, no? Carlo VIII, col bastard, dice all'imperatore, senti, ti vorrei proprio aiutare, io quel Lutero lì non lo sopporto proprio. Vabbè, re d'Inghilterra, vabbè, poi dopo l'Inghilterra ha poi avuto Elisabetta, adesso mia moglie approfitta, dirà, le donne risolgono i problemi molto meglio di voi. Vabbè, ma questo va bene. Permettetemi un pezzo in più. Nei decenni dopo questi avvenimenti c'è stata in realtà una guerra di religione in Germania, come anche in Francia, del resto, come anche le valli valdesi che ci hanno ammazzato soltanto noi, ma comunque questo così sono andate questo tipo di cose. Ma quella parte della Germania che era ormai luterana è rimasta luterana. E quando c'era stato un'ondata di ateismo in Germania, i buoni luterani hanno mandato via tutti gli atei e è nato un risveglio religioso. Se andate in America sentirete sempre parlare di revival, no? Risvegli religiosi. C'è un risveglio religioso in Germania dal quale nasce una epoca del tutto diversa, però i luterani sono efficaci in Germania con qualche dispiacere, eccetera. Dai luterani tedeschi nasce la filosofia di Emanuele Kant. Kant allenang da Campevia, né? Kant dichiareva: io sono un fedele luterano, e questo lo era abbastanza. E poi gli altri sviluppi che non vi racconto della cultura, della filosofia tedesca. Kant è stato appunto un grande genio del pensiero. Sono uno sviluppo, quasi tutti questi qua si richiamano, per esempio, la filosofia non è mio forte, ma ho letto un pezzo filosofico di Hegel, boia fos, com'è difficile, no? Hegel, 1800, scriveva, racconta anche la riforma e la descrive, lui, grande filosofo, io pensavo fosse ateo, Hegel, invece no, credeva di essere il Padre Eterno lui, ma comunque, no? E lui, sapete come lui parla, in un suo libro bellissimo, che un valdese ateo mi ha obbligato a leggere, ma così la mia fede è un po' aumentata, perché il grande Hegel dice: e poi arriva la riforma, è un libro di storia, arriva la riforma che trasforma tutto. Mi sono un po' più contento. Se un ateo dice quello, che dice, questo c'è, va bene. Concludiamo. Lutero ha avuto un'eredità a cui non aveva mai pensato, ma pensano come Lutero buona parte dei norvegesi, dei finlandesi, degli svedesi. Non è vero che sono tutti atei, non è vero, sono poperei, ma in Danimarca, come in Norvegia, come in Svezia, rubare è pericoloso, mentire è pericoloso. Poverini, non hanno il livello di civiltà che abbiamo noi nelle terre. Però ci sono anche alcune zone, che non vi racconto, in cui la presenza luterana si è sviluppata per volontà di Dio, non lo dico per scherzo. Per esempio, la pagina più importante della cristianità in Etiopia è avvenuta quando noi italiani andavamo a fare cose che non racconto stasera perché sono una vergogna, mentre noi andavamo mazzetta nera, come dire, faccetta nera, bella bestia, nessuno perde, per me sono stunato, per snencanteie, no? E già, ma il momento più valido di testimonianza cristiana in Etiopia, l'hanno fatta degli etiopici diventati luterani, vero? Che hanno pagato con la vita la loro testimonianza di fede. Cose analoghe sono successe nell'Africa meridionale, in Germania sotto il nazismo, Bonhoeffer era luterano. Ecco, in Germania i luterani ebbero quasi tutti il coraggio di dire: abbiamo sbagliato, abbiamo appoggiato un demone mentre credevamo soltanto di fare uno. Ne parlano ancora adesso i tedeschi su queste cose così, no? Per cui possiamo tener conto, noi valdesi siamo numerosissimi, siamo 10.000, e i luterani nel mondo sono un po' di più, 80 milioni, ma come si permettono, insomma, 80 milioni. E concludo raccontando una storia. A un certo punto la chiesa luterana norvegese, 80 anni fa, ha deciso che bisognava aiutare l'Etiopia, dove la gente crepava di fame, no? E allora il Parlamento norvegese, 1930, decide di costruire un ospedale nelle zone più miserabili dell'Etiopia. L'Etiopia è metà ortodossa e metà musulmana, no? E allora, con i soldi del Parlamento, viene costruita nella zona più miserabile dell'Etiopia, quella verso il Sudan, costruito un bellissimo ospedale. E i nordici hanno dello stile. Chi è che va a inaugurare questo ospedale pagato dal Parlamento norvegese? Il re di Norvegia viene a inaugurare questo ospedale modernissimo, vero? Allora fa il suo discorsino e poi tira fuori una chiave, la dà a uno dei funzionari etiopici, quello là lo prende, poi gliela ridà, caro... Maestà. Maestà, lei si tenga questa chiave, preferiamo che sia lei a governare questo ospedale. Che è una cosa gradevole, e mi scuso che ho... Sì. Bene. Ho parlato troppo. Grazie. Quando il pastore Bouchard dice sarò breve, aspettatevi un'ora come stavolta. Però, per quanto le mogli siano sempre ipercritiche, ha fatto una carrellata, no? A vol di rondine su alcuni momenti fondamentali. Ecco, io innanzitutto ringraziamo per questo invito il Museo Diocesano, la biblioteca, e i suoi direttori e il professor Bersani, che è un amico, e quindi ci fa molto piacere essere qui. Io ricordo per esempio di essere stata qualche anno fa, mi ricordavo passando qui, a un seminario organizzato da associazioni laiche femminili in cui io dovevo parlare sulle donne nella Bibbia, e c'era anche quella persona meravigliosa che è Paolo De Benedetti, che era un caro amico, lo ricordiamo sempre. E anche lui, erano gli ultimi anni, aveva tanta difficoltà, no, a parlare, aveva, insomma, passano gli anni, quando il pastore Bouchard ne aveva 40 e non 88 come adesso, riusciva a parlare anche un'ora, ma con meno difficoltà. Ecco, quindi voi lo avete conosciuto Paolo De Benedetti in tutto il suo iter, e lui fino alla fine è stato presente nelle cose. Me lo ricordo anche a Torino, in riunioni ecumeniche, e quindi, insomma, fino a che ha potuto, come Giorgio, insomma, ha detto, ha fatto, ha scritto, eccetera. Abbiamo un gran ricordo di lui. Detto questo, io molto più brevemente voglio semplicemente offrirvi una lettura che, come si dice in linguaggio giornalistico, è una chicca, perché è un articolo scritto da Paolo Ricca nei 500 anni dalla nascita di Lutero, quindi era l'83, quindi introvabile ormai, che io ho scovato, che secondo me è una delle cose più interessanti per vedere il tema proprio della attualità di Lutero. Quest'anno abbiamo sviscerato Lutero in lungo e in largo da tutti i punti di vista, biblico, teologico, storico, economico, sociologico, tutto quello che volete. Ecco, ma questo breve articolo scritto allora da Paolo Ricca, io l'ho trovato molto attuale, appunto, molto attuale. Allora vi voglio dire i punti fondamentali. Ecco, dice Paolo Ricca, che voi conoscerete senz'altro perché è un teologo molto presente nell'ecumenismo, ed è senz'altro, lui è un grande amante di Lutero e conoscitore, ecco. E lui dice: dubito che Lutero stesso avrebbe mai intitolato così il racconto della sua vita o il senso della sua opera. Non avrebbe mai parlato di attualità, Lutero. Dice: a Lutero non interessò mai di essere attuale, né gli interesserebbe di esserlo oggi. Quindi, prima cosa, no? Segato il concetto che per Lutero fosse importante l'attualità, come si può intendere oggi in senso, diciamo, giornalistico. Ma, dice Paolo Ricca, Lutero non fu neanche attuale nel suo tempo. Per esempio, abbiamo visto la sua formazione come monaco agostiniano, e era una formazione, ne parlavamo venendo qui col professor Bersani, di monaco medievale. Quella era la sua struttura mentale e anche dei suoi studi, no? Quindi era troppo medievale per un umanista come Erasmo. C'è tutto il contrasto, il rapporto, dialogo, contrasto tra i due. Anche al tempo stesso troppo moderno per una Chiesa che nel suo complesso era ancora tomista, era ancora tutta permeata della cultura medievale. Poi era al tempo stesso troppo moderato per gli ambienti che poi diventarono della riforma radicale, la cosiddetta riforma radicale. Era considerato troppo moderato e al tempo stesso troppo innovatore, potremmo dire addirittura estremista, agli occhi del legato pontificio in Germania, il cardinale Gaetano. considerato troppo tedesco, troppo germanico negli ambienti della curia romana, quindi considerato appunto un contadino che ha i paraocchi, che va troppo sulle cose concrete, no? Eppure per i cavalieri tedeschi dei principi, che poi saranno quelli che faranno le guerre di religione, era ancora troppo romano, troppo formato in quello che era l'eredità del pensiero della Chiesa cattolica in cui era cresciuto. Era considerato troppo riformista, per usare un termine contemporaneo, no? Troppo riformista per quelli che saranno, che ne so, Münzer, per esempio, i rivoluzionari religiosi del tempo, eppure invece considerato anche troppo rivoluzionario per tutti gli storiografi cattolici dei secoli successivi. Quindi questo Lutero, visto da tanti punti di vista, mai a suo agio nel momento in cui era, nella cultura in cui era, considerato diversamente a seconda delle cose. Ecco, quindi basta accennare queste contraddizioni per vedere che Lutero in realtà ha un rapporto conflittuale col suo tempo. Lui si misura con quelle che sono le gli input, diremmo noi oggi, i vari input del suo tempo. Anzi, lui considera la contemporaneità, l'attualità, un tempo dannato, per usare la sua espressione. Cioè, lui percepisce quanto di anche sanguinoso viene in seguito, no? In seguito poi all'utilizzo politico che viene fatto, no? Dai vari principi, tutto quello che ha significato, le guerre di religione nei secoli seguenti, eccetera. Quindi diceva, un tempo dannato, diceva lui. E quindi visse, come visse drammaticamente Lutero la sua conversione, giustamente Giorgio ricordava il verso di Abacuc, il giusto vivrà per fede, o il giusto per fede vivrà. Cioè il giusto, cioè quello che Dio giustifica, è Dio che tramite la vocazione, tramite la conversione, giustifica col sangue di Cristo, no? La persona umana che è nata nel peccato e che purtroppo, per quanto giustificato, continua a peccare, a sbagliare. Simul peccator ac justus. Contemporaneamente ciascuno di noi, ogni credente, è peccatore, perché essere umano che sbaglia, nonostante le migliori intenzioni, però reso giusto da che cosa? Dalla fede e quindi dalla conversione e da Cristo che si è sacrificato per noi, per usare un termine teologico. Ecco, quindi Lutero ha una conversione profonda. Si è detto di tutto, che lui era ossessionato dal sesso, che lui non faceva le penitenze quando era monaco, no, perché aveva le tentazioni e tutto quanto. Lutero semplicemente tentava di raggiungere la perfezione con le sue forze e non ci riusciva. E non ci riusciva. Perché noi esseri umani siamo condannati a questa continua duplicità in noi stessi, no? Desiderare di essere veramente in comunione col Signore, veramente senza peccato, e continuare senza peccato, ma che poi può essere anche le difficoltà di carattere, le cose che ci rendono difficile il rapporto col fratello, con la sorella, col vicino di gomito, insomma, no? Ecco, non è necessario avere i grandissimi peccati, essere, che ne so, degli assassini. Ciascuno di noi verifica che nella vita quotidiana sbaglia in mille modi. Quando ero bambina mi si insegnava, la mia mamma cattolica, mi insegnava alla sera di fare l'esame di coscienza. L'esame di coscienza, che ormai credo che non si insegna più ai bambini, però è sbagliato non farlo. Perché l'esame, tu sei lì, sì, magari poi ti senti alto così, però fai l'elenco delle cose che hai vissuto nella giornata e scopri che hai sbagliato questo, questo, questo, quell'altro, no? Allora, Lutero scopre che per quanto lui si sforzasse non riesce a essere santo nel senso di essere perfetto, continua a sbagliare, ecco. E scopre anche che non è necessario, quindi, a un certo punto, fare i digiuni, fare le mortificazioni, fare tutte le cose che la cultura medievale gli aveva insegnato, ma che bastava vivere per fede, cioè continuare ad andare avanti seguendo la sequela, no, del credente, seguendo l'esempio di Gesù. Ecco, questa è stata la conversione di Lutero. E quando è nel pieno della battaglia, giustamente Giorgio Bouchard ricordava la frase famosa che Lutero dice davanti a Carlo V, il concetto della coscienza, guardare dentro di sé la coscienza. Nel pieno della battaglia lui scrive: Dio non mi guida più, ma mi trascina. Dice: non sono più padrone di me stesso, aspiro al riposo e sono trascinato nel tumulto. Ecco, lui si rende conto che è all'interno di un processo in cui è sospinto, no? È sospinto. Ricordava appunto la vocazione ricevuta durante la Scala Santa, no? Che era la penitenza che facevano i pellegrini a Roma. Ecco, quindi non è che Lutero si sia messo lì a tavolino a dire adesso faccio la riforma. Succede, è una serie di eventi che succedono e da cui lui stesso, che ha innescato il processo con le 95 tesi, eccetera, eccetera, eccetera, è trascinato in questo vortice di conseguenze. E quando sa che gli deve arrivare la scomunica, scrive: sto mettendo tutto in ordine in modo che quando la scomunica arriverà, io sia pronto a partire come Abramo, senza sapere dove andrò, fermo però nella certezza che Dio è ovunque. Quindi sapeva a cosa andava incontro, però diciamo la sua fede era più forte. Quindi dice, tornando a quello che dice Paolo Ricca, dice: si tratta quindi di una attualità inattuale, quella di Lutero, inattuale, di un emigrante della fede come Abramo, questa bella definizione che lui dà. Lutero sta a cavallo dei tempi e nello stesso tempo di ieri e di domani, e solo così diventa di oggi, perché al tempo stesso è di ieri e di domani, e questo lo rende, tra virgolette, attuale. Ecco. La sua morte, che avevo dimenticato. Adesso la vuoi dire? Sì. Vabbè, lo dici dopo. Allora, che mi perdo il filo. La cosa più importante. A un certo punto Lutero ormai. Aspetta, è bellissima la morte di Lutero. Avvicinato dai suoi amici che gli fanno capire quello che sta succedendo. Lui si stende nel letto e dice: siamo tutti mendicanti, questo è la verità. Wir sind alle Bettler, das ist wahr. È vero, bellissima questa frase di Lutero, questa frase finale. Ecco, allora avete capito i poli in cui si sviluppa l'attualità di Lutero. Ricca dice sì, in qualche modo c'è un'attualità di Lutero oggigiorno, ma è un'attualità scomoda, è un'attualità che ci interpella, è un'attualità inquietante. Quali sono le forme di questa attualità? Allora, innanzitutto il fatto che il nemico del credente non è esterno ma è interno, cioè la teologia di Lutero fa sì che viene attuata il detto di Sant'Agostino: in interiore homine habitat veritas, cioè ritornare dentro di sé, vedere gli aspetti dell'interiorità. E questo quindi è qualcosa di opposto rispetto, cioè continuando nella visione di Agostino, qualcosa di opposto rispetto a quella tomistica. Il secondo, adesso vado per punti perché sarebbe da approfondire molto di più, ma insomma, il secondo punto è questo della liberazione di quello che viene chiamato da Paolo Ricca la liberazione di Dio, cioè la parola scatenata, la parola della Bibbia viene tolta dalle catene della teologia, no? Ma, diciamo, abbeverandosi direttamente alla Bibbia, alla parola, all'Antico e Nuovo Testamento, il posto della fede è il cuore dell'uomo. Questo è il secondo punto. Quindi il rapporto con Dio è un rapporto personale, interiore. Voi vedete che quindi in questo modo salta, diciamo, la struttura ecclesiastica. L'unico sacerdote è Gesù, che fa da ponte tra la condizione umana e quella divina, che è vero Dio e vero uomo, e quindi non c'è bisogno di intermediari. L'unico intermediario è Gesù. Non c'è bisogno di intermediari umani, sacerdoti, eccetera, eccetera, eccetera. Il terzo punto è quello della critica al papato come struttura, no? Come struttura, diciamo, di potere, politica, no? E Lutero parla di un prete esteriore, la struttura di potere ecclesiastica, che si contrappone al prete interiore. Ecco, quindi anche lì un discorso molto grosso, il concetto di anticristo, cioè Cristo come vero Dio, vero uomo, e non c'è nessuno che, diciamo, può sostituirlo. Questo e quindi anche qui messa in crisi della struttura ecclesiastica. Il quarto punto è la scommessa sulla laicità e sul laicato. Abbiamo visto prima, Lutero se ne va dal convento, fa chiudere i conventi, sua moglie, ex suora, anche lei esce dai conventi. Anche oggigiorno i pastori vivono, non sono sacerdoti, sono teologi, studiosi, curatori d'anime, tutto quel che volete, l'unico sacerdote è Cristo, sono testimoni, eccetera, eccetera, ma vivono nel mondo con le loro famiglie, bambini, eccetera, eccetera, come tutti gli altri. Quindi il laico è nella società, dice Lutero, che il ciabattino, no? Il ciabattino che fa bene il suo lavoro può essere testimone delle virtù cristiane. Ecco, questo può essere uno dei motivi per cui nei paesi che prima citava Giorgio, i paesi del nord Europa, meno facilmente si ruba, perché il concetto è che ciascuno deve far bene il suo lavoro. Noi in Italia, noi poi abbiamo vissuto anche nel Mezzogiorno, e nel Mezzogiorno c'è questa cultura spagnolesca, non spagnola, perché adesso gli spagnoli sono molto avanti nella modernità, ma spagnolesca, ancora nobiliare, per cui il lavoro è considerato qualcosa di da non fare, insomma, qualcosa che deve fare. No, io mi ricordo, per esempio, che ne so, quasi tutti i portinai subappaltavano il loro lavoro. C'era la portinaia della chiesa, peraltro, che lei stava lì, ma non puliva le scale, perché quella era considerata una cosa inferiore. C'era una coppia di poveretti a giornata che lei aveva, come si può dire, assunto per fargli pulire le scale. Ecco, allora il lavoro manuale come considerato un lavoro inferiore, un lavoro da servi, ecco. Questa invece nella modernità dell'Europa moderna, del pensiero che anche il ciabattino che fa il suo dovere testimonia giustamente quel che deve essere un cristiano dal punto di vista etico, questo non succede. Ecco, e allora l'ultimo punto è quello della libertà del cristiano. Ne parlavamo oggi venendo su col professor Berzani, cioè questo libricino che, se non l'avete letto, leggetevelo perché è bellissimo, molto profondo, in cui Lutero dice: ma il cristiano cos'è? Libero o sottomesso? E il cristiano è contemporaneamente sottomesso, servo di ognuno, servo dei suoi fratelli e delle sue sorelle, ma sovranamente libero. Non c'è nessuna autorità che gli deve dire cosa deve fare. Basta appunto la sua coscienza continuamente verificata con la parola, con la lettura della parola, con la preghiera. Ecco, cioè sono queste, vedete come è dinamico il pensiero di Lutero. Quindi, concludendo, secondo questa bella lettura che ho voluto condividere con voi, fatta da Ricca, Lutero è stato apostolo della grazia gratuita, dice. La grazia è un dono nella teologia, e questo è il termine, la grazia gratuita. Non ti arriva perché tu te la meriti, perché è arrivata a un sacco di peccatori. Pensiamo a Paolo, che stava andando a perseguitare l'apostolo, che stava andando a perseguitare i primi cristiani. Quindi, voglio dire, la grazia è gratuita, non dipende dalle tue bravure. Quindi è inutile andarsi a fare le processioni, a fustigarsi. Pensate le fustigazioni che si facevano nel Medioevo, purtroppo ci sono ancora. Io ho visto dei filmati da questo punto di vista. Ecco, niente, la grazia è gratuita. C'è poi tutto un filone di pensiero che va in quella direzione, per esempio filosofi più vicini a noi, Kierkegaard, pensiamo, no? Ecco, sì, è gratuita, però, come dice Bonhoeffer, ci fa notare Paolo Ricca, non è a buon prezzo, La grazia è a caro prezzo, cioè poi ti conduce, come Lutero che diceva io mi sento trascinato, no? Così il credente si può trovare, a seconda della vocazione che il Signore gli rivolge, perché tutti noi, piccoli o grandi, ci sono i grandi eroi e poi ci siamo noi piccoli credenti, no? Che abbiamo avuto la nostra piccola forma di sequela. Comunque, ogni credente si trova a sperimentare che la grazia non è a buon prezzo, bensì a caro prezzo. Significa delle scelte, significa delle rinunce. Cosa c'è, Giorgio? 8 meno un quarto. Lo so, e te hai parlato un'ora. Scusa, non sono le 8 meno un quarto. Vabbè, sono battute coniugali. Io comunque ho finito. Allora, e quindi su questa cosa di Bonhoeffer, che ha sperimentato nella sua vita, luterano, convinto, pastore, eccetera, ha sperimentato nella sua vita cosa significava grazia a caro prezzo, finisco questa rievocazione dell'attualità e inattualità di Lutero. Grazie. Per essere qui questa sera non approfitterò troppo della vostra pazienza. Vorrei, se mi permettete, ringraziare in particolare il direttore del museo, perché stasera c'era stato un piccolo disguido, ma lui in maniera molto solerte ha allestito il proiettore, perché mi servirò molto delle slide per presentarvi. Un concittadino, Giacomo Bruto, nato a Villanova d'Asti tra il 1551 e il 1553 e morto a Palermo il 28 ottobre del 1591. L'Italia, abbiamo sentito parlare dell'Europa, dei paesi nord europei toccati dal fenomeno della riforma protestante, ma l'Italia del Cinquecento non fu estranea alla diffusione delle idee della riforma. Ne abbiamo testimonianza fin dall'inizio degli anni venti del Cinquecento. Le idee di Lutero cominciarono a diffondersi innanzitutto tra i nobili, tra gli intellettuali, tra i religiosi. Molti cardinali aderirono in qualche maniera alle idee della riforma. Scorrerò velocemente i luoghi, i personaggi italiani che furono coinvolti nella riforma religiosa. A Napoli, per esempio, troviamo il circolo degli spirituali che si raccolse intorno al mistico riformatore spagnolo, monaco spagnolo, che si chiamava Juan Valdés. Importantissimo il circolo degli spirituali di Viterbo, costituito per la maggior parte da cardinali dell'area erasmiana, quella che era più vicino alle idee riformate. Mi piace ricordare che a questo circolo apparteneva anche la nobildonna poetessa italiana Vittoria Colonna, la quale fu molto attiva nel parlare delle idee riformate, soprattutto nelle rime spirituali. Lei denuncia la situazione di corruzione della Chiesa. All'epoca girava un trattatello, probabilmente uscito da questo circolo, che era chiamato Il Beneficio di Cristo, che conteneva spunti erasmiani, luterani e calvinisti, e parlava della dottrina della giustificazione per fede, parlava della fine del potere temporale dei papi. Ancora tutto il Veneto fu toccato dalla riforma, soprattutto fu la patria di accoglienza degli anabattisti, una parte più radicale della riforma protestante, con nomi importanti. Pierpaolo Vergerio, vescovo di Capodistria, ancora in Toscana il monaco agostiniano Piermartire Vermigli, molte famiglie toscane aderirono alla riforma e poi si rifugiarono a Ginevra quando poi la lotta per la repressione dell'eresia si fece più veemente, più violenta. E ancora ricordiamo il vicario generale degli ordini dei Cappuccini, Bernardino Occhino, ma ricordiamo anche che già dal 1200 erano presenti nella zona subalpina i Valdesi, discendenti da Valdo di Lione, e che nel 1532, se non vado errato, aderirono alla riforma protestante, localizzati soprattutto, come sapete, nella Val Pellice, nella Val Chisone Germanasca. Ecco, ci focalizziamo adesso nel nostro territorio, in Piemonte. Abbiamo la diffusione delle idee della riforma ad opera di alcuni monaci. Abbiamo testimonianza di Agostino Mainardi, eremita agostiniano fiorentino, che nel 1535 tenne una predica qui nella cattedrale di Asti e fu tacciato di eresia perché disse qualcosa sulla giustificazione, fu richiamato dal vescovo della Rovere, però non abbiamo notizie di conseguenze ulteriori. Ricordo anche tra gli altri Scipione Lentolo, che era un frate napoletano, carmelitano, che si era avvicinato alla riforma grazie al vescovo di Policastro e fu imprigionato, ma riuscì a fuggire dalla prigione e scappò a Ginevra. Lì frequentò l'Accademia di Calvino e divenne pastore. Fu mandato nelle valli valdesi, dove si curò delle comunità qui in Piemonte, e abbiamo testimonianza di Scipione Lentolo a Villanova d'Asti. Lui predicò pubblicamente e battezzò anche, così raccontano i documenti. E ancora le idee della riforma si diffusero anche grazie ai soldati di stanza qui in Piemonte durante l'occupazione francese, i soldati ugonotti che venivano dalla Francia. Gli ugonotti, diciamo, sono i riformati francesi. Ecco, una bellissima testimonianza è data dalla lettera del medico di Busca, qui in provincia di Cuneo, Gerolamo Raffaele Alosiano, che scrive per conto delle chiese valdesi riformate del Piemonte, scrive ai principi protestanti tedeschi perché c'era penuria di pastori, c'era bisogno di pastori che si prendessero cura delle persone convertite alle idee della riforma, e parla di 40.000 fedeli nelle valli, e poi dice: nella pianura il numero dei fedeli è più grande, e fa un lungo elenco di tutti i paesi qui della provincia dell'Astigiano, compreso Villanova d'Asti. Villanova d'Asti, sono i due vescovi che operarono più o meno in tutto il XVI secolo qui in Asti, dati dal censimento ordinato dal vescovo Domenico della Rovere. A Villanova d'Asti, dove era nato Giacomo Pruto, su una popolazione di 6.500 abitanti abbiamo 45 luterani, 87 calvinisti e 1.027 valdesi. Veniamo alle vicende della vita di Giacomo Pruto. Ecco, Giacomo Pruto è legato soprattutto alla riforma ginevrina e alla chiesa pellegrina, come per usare l'espressione di Agostino, cioè la chiesa delle persone che erravano, vagabondavano a causa appunto della loro fede, delle persecuzioni, e può essere considerato uno degli ultimi martiri della riforma in Italia. Nel 1589 compare per la prima volta davanti all'Inquisizione sotto l'accusa di essersi espresso in modo favorevole nei riguardi della dottrina e della pratica protestante. All'epoca il Bruto aveva 36 anni e si trovava a Palermo, poi vedremo come ci arriva a Palermo. Ecco, una precisazione riguardo alle fonti da cui attingiamo le notizie della vita di Bruto. Le fonti sono esclusivamente gli atti del processo, anzi dei due processi a cui lui fu sottoposto a Palermo davanti all'Inquisizione, che ci sono pervenuti grazie al lavoro di uno storico paleografo italiano, il professore Carlo Alberto Garuffi di Palermo, che era nato nel 1868, il quale per ragioni di studio si reca all'archivio di Stato spagnolo a Simancas, un archivio importante perché fu istituito da Carlo V nel 1540 e per ordine sempre dell'imperatore tutti gli atti processuali, amministrativi che venivano prodotti nei territori dominati dagli spagnoli dovevano essere mandati a Simancas. È un archivio notevole, si parla di 12.000 metri quadrati di scaffali, tra cui si trovano anche gli atti dell'Inquisizione spagnola, soprattutto in Sicilia, per quello che ci riguarda. Questo è il titolo sotto il quale sono raccolti i documenti che riguardano Giacomo Bruto e si parla del secondo processo a Giacomo Bruto, riconciliato dall'Inquisizione del Regno di Sicilia e rilasciato a Palermo al braccio secolare con sentenza del 10 luglio 1590. Da questa breve sintesi raccogliamo due informazioni importanti. Riconciliato vuol dire riammesso nella Chiesa perché fu sottoposto a processo una prima volta e questo processo si concluse con la sua pubblica abiura. Il che non significò che lui poi non dovette scontare una pena, ma lui recidivo, chiaramente ritrattò la biura e fu rilasciato, i rilassati erano quelli che venivano poi consegnati al braccio secolare per essere giustiziati. E era nato da una famiglia cattolica qui in Villanova d'Asti e tutto quello che sappiamo chiaramente viene dedotto dagli atti del processo con una precisazione. Gli atti del processo furono scritti dal notaio dell'Inquisizione, poi furono tradotti in spagnolo per essere mandati nell'archivio, il Garuffi li legge in spagnolo, li ritraduce in italiano, portando anche dei contributi laddove lui riteneva che i notai si fossero sbagliati o avessero detto delle cose insomma non corrette, per cui diciamo che le fonti sono un po' traballanti e chiaramente sono dichiarazioni e fatti resi in un contesto particolare laddove una parte deve accusare e quindi deve sostenere un'accusa e l'altra parte deve difendersi, quindi diciamo che è un racconto interpretato ovviamente. E quindi lui racconta che all'età di 11-12 anni divenne amico di Sebastiano Visca, suo professore di latino a Villanova, che viene indicato negli atti del processo come luterano calvinista. C'è un po' di confusione, probabilmente gli inquisitori forse non avevano chiare le idee della differenza tra luterani e calvinisti. Per 5 anni il Visca e la sua famiglia lo educarono al calvinismo. Soprattutto che cosa succede? Che Visca lo porta con sé a Ginevra, perché Visca faceva parte di un movimento clandestino che faceva capo alla Marchesa di Saluzzo, che pare fosse sua cugina. Questo movimento si preoccupava di far venire i testi della Riforma in Italia. Ecco, noi in questi giorni ricordiamo anche la Riforma legata all'evento della stampa, che contribuì chiaramente alla diffusione delle idee dei riformatori. Quindi lui va a Ginevra con il suo professore di latino, conosce l'ambiente ginevrino, conosce Calvino e Però sebbene sua mamma poi cercasse di dissuaderlo e cercava di convincerlo a ritornare alla fede cattolica, tranne la breve parentesi dell'anno del 1589, lui non cessò mai di avere fede nelle dottrine eretiche che aveva appreso in giovinezza. A 17 anni però entra nell'ordine degli agostiniani. Perché entra nell'ordine degli agostiniani? Il Garufi avanza l'ipotesi che per l'inasprirsi delle lotte contro l'eresia, per l'inasprirsi delle persecuzioni, lui avesse assunto un atteggiamento nicodemita. Ricordate che Nicodemo, come ci racconta il Vangelo di Giovanni, va di notte da Gesù per interrogarlo sul suo insegnamento, e Calvino aveva condannato i riformati italiani perché non manifestavano, non dichiaravano apertamente la propria fede. È difficile rispondere a questa domanda, perché probabilmente i timori della persecuzione a Ginevra, più ci si avvicinava a Roma e più forse diventavano terrori. Ora, lui entra appunto nell'ordine degli agostiniani, studia in Italia, poi va a Parigi a studiare e approfondisce il latino, la retorica, la teologia, la storia, la logica. E dopo un po' però lui dice all'inquisitore che si era stancato della teologia piena di errori, lascia Parigi e ritorna in Italia. Ritorna in Italia e si rifugia in qualche luogo nella zona dell'Adriatico, ma non sappiamo, dagli atti del processo non si capisce esattamente dopo, ma quello che sappiamo è che a un certo punto a Lucca, sempre in un convento sempre dell'ordine agostiniano, e non è un caso perché voi sappiamo che Agostino, padre della Chiesa, è ricordato per le sue per i suoi interessi teologici. Lui ha elaborato la dottrina della Trinità ha fatto delle riflessioni profonde sulla dottrina della Trinità, sulla Chiesa, sui sacramenti, ma è ricordato anche come il dottor Grazie. Agostino sosteneva la predestinazione, sosteneva l'intervento della grazia di Dio per la salvezza dell'uomo. E ricordiamo la disputa accesa che ebbe contro Pelagio, il quale invece diceva che l'uomo aveva capacità di salvarsi da solo. E non a caso molti agostiniani in Italia aderiscono alle idee della Riforma. E appunto incontra un amico, un inglese, che lo convince ad abbandonare il monastero e a recarsi a Ginevra. Bruto lo ascolta, arriva a Ginevra, si spoglia dell'abito monastico e viene accolto da un cugino, probabilmente un certo Piero Musso. Troviamo il suo nome nel libro dei Borghigiani a Ginevra. Il 28 novembre del 51 viene registrato questo nome di un certo Pierino Musso, figlio di Stefano di Villanova d'Asti, farmacista. E molte famiglie appunto si rifugiavano a Ginevra per sfuggire alla persecuzione. Fu esortato a entrare nell'Accademia, a diventare pastore, però a quanto pare a un certo punto lui lascia anche Ginevra, ritorna in Italia, prima entra nel monastero degli Agostiniani a Pavia, questa è la tomba di Agostino nella Basilica di San Pietro a Pavia. Poi lo troviamo a Garegnano, a Milano. Garegnano attualmente è un quartiere di Milano, e dice all'inquisitore che poi arriva in un certo luogo in Piemonte, non sappiamo dove, però a quel punto lui entra nell'ordine dei serviti che loro avevano adottato la regola agostiniana, e Ho ipotizzato che potesse essere il monastero di Sommaruga del Bosco, probabilmente perché era più vicino a Villanova, forse lui ha avuto desiderio di rivedere la sua famiglia. Ce n'era un altro in Piemonte dell'Ordine dei Serviti a Luserna San Giovanni. Bruto non dice a proposito niente all'inquisitore, probabilmente per preservare i suoi fratelli, i suoi familiari dalle attenzioni dell'inquisitore. Però il suo bisogno di movimento lo porta a muoversi ancora dal Piemonte e desidera di andare a Roma a parlare col Papa, ma il Papa non lo riceve e allora lui comincia a vagare per l'Europa. Lo troviamo in Spagna, lo troviamo in Francia, lo troviamo in Germania. Probabilmente va fuori dall'Italia per evitare persecuzioni. E in Germania racconta all'inquisitore di aver incontrato un vescovo il quale gli dà un documento, un lasciapassare per ritornare serenamente in Italia. Nel 1587 arriva a Verona dove per 10 mesi si cura, diventa cappellano e tenta di nuovo di tornare a Roma, però senza esito, e prosegue il suo viaggio verso il meridione, passa per Napoli, ma da Napoli deve scappare probabilmente perché l'avevano intercettato, e arriva a Palermo. Arriva a Palermo e comincia a guadagnarsi la vita insegnando latino. Però a un certo punto viene denunciato all'Inquisizione per aver lodato la condotta dei luterani. L'Inquisizione si serviva della cosiddetta familiatura, cioè dei familiares, che erano praticamente degli informatori degli inquisitori, i quali appunto si mettevano a servizio del Tribunale dell'Inquisizione per ricevere delle esenzioni fiscali o anche dei titoli nobiliari. Sta di fatto che il Bruto viene incarcerato e portato davanti all'Inquisizione e sottoposto per la prima volta a processo. Questa era la sede del Tribunale dell'Inquisizione a Palermo tra il 53 e il 1601, perché poi dopo si passa nel palazzo nobiliare dei Chiaramonte, perché questa era una roccaforte spagnola antistante il porto di Palermo, la polveriera esplose e crollò, quindi dovettero cambiare sede. Ma Bruto fu portato qui e sottoposto a processo, torturato. E questa prima parte, insomma, delle vicende finali della sua vita si concludono con la biura. L'8 ottobre del 1589 viene fatto salire su un palco eretto in Piazza Bologna, lì vedete la statua di Carlo V, e fece pubblica abiura. Fare pubblica abiura significava essere riconciliati con la Chiesa, cioè essere riammessi nel seno della Chiesa, ma bisognava scontare una pena. Giacomo Bruto viene condannato alla pena del remo, cioè fu messo su una regia galera e questa sentenza fu ritenuta pietosa per l'Inquisizione. Sta di fatto che le persone che finivano sulle galere non si passavano molto bene, perché praticamente da quello che sappiamo, dalle testimonianze della vita sulle galere spagnole soprattutto, erano costantemente legati al banco della rematura, non venivano mai liberati neanche per i loro bisogni corporali. Mangiavano una volta, di solito al tramonto, perché non dovevano vedere quello che c'era nella scodella, e mangiavano le gallette, che era un composto di farina e acqua, con l'aggiunta o di acqua marina o di aceto, da qui il rancio, cioè acido, rancido, per coprire appunto l'odore e il sapore di rancido. Cesare La Torre era il supercomite che dirigeva la galera, ma sta di fatto che dopo 6 mesi Bruto non ce la fa più e racconta all'inquisitore che ricorda le parole di Gesù riportate nel capitolo 10 del Vangelo di Matteo, dove Gesù dice: non temete coloro che uccidono il corpo, ma temete piuttosto quelli che possono uccidere l'anima, e decide di ritornare sui suoi passi. Il 4 maggio del 1590, quando un compagno di prigionia, probabilmente un membro della famigliatura, stava per informare l'Inquisizione delle bestemmie pronunciate da uno degli ufficiali della galera, il Bruto gli mise in mano un memoriale con una lettera indirizzata al procuratore fiscale dell'Inquisizione palermitana. Nel memoriale lui spiega che dal momento della sua abiura era stato perseguitato dal rimorso di aver negato la verità evangelica e di aver offeso la maestà di Dio. E un testimone racconta che lui aveva esclamato: ho fatto una buona cosa, perché ho mandato 60 capitoli di eresia al Santo Uffizio, che sono pronto a sostenere, perché io desidero essere arso e morire una volta piuttosto che stare in questa galera e morire tante volte soffrendo tante fatiche con la fame, mali trattamenti e altre miserie che si passano in galera. Il procuratore fiscale dirà poi, denunciando, che il documento conteneva buona parte di quello che crede e confessa la Chiesa di Ginevra e molti altri regni occidentali. Questo memoriale, Bruto, con grande lucidità e in pochi tratti, dà ragione della sua fede. Evidentemente le idee che, riformate che lui aveva preso da ragazzo erano rimaste nel suo cuore e adesso lui ne fa aperta professione. La protesta, più che toccare argomenti di tipo teologico, hanno anche uno sfondo, un contesto sociale. Si rivolge con veemenza contro gli ecclesiastici e dice: spingono all'ozio, ai vizi carnali, alle ambizioni, alle rapine, a togliere il pan di bocca ai derelitti orfani, pupilli e vedove, offendono la maestà divina e la provocano a flagellare il mondo. Dopo si scaglia contro la messa dei defunti e qui sentiamo l'eco della critica alla vendita delle indulgenze, e poi sostiene che l'ostia è puro pane presentato al popolo ignorante in memoria dell'amara passione di Gesù Cristo. Qui capiamo che lui aveva pienamente aderito alla riforma calvinista, perché parla della cena del Signore come memoriale, come elemento simbolico, e a differenza dei luterani non ci possiamo addentrare in queste questioni, soprattutto per ordine di tempo. Il 10 luglio del 1590 viene consegnato al Santo Uffizio, al braccio secolare, e trascorre in prigione più di un anno in attesa dell'esecuzione della condanna, che era morte per combustione, cioè viene arso vivo. Questi sono i graffiti, i cosiddetti graffiti, che erano all'interno delle prigioni dell'Inquisizione. Questo documento mi ha molto impressionato, perché adesso l'immagine non è molto chiara, però qui si legge coraggio oppure animo condannato, ma a un certo punto in queste lettere qui si parla del Dio crocifisso. Qualche condannato scrive delle parole, dei versi, parla del Dio crocifisso. E sappiamo che è un aspetto, una riflessione teologica molto profonda, molto importante. E uscì, a proposito, uscì sulla stampa un articolo dal titolo «Streghe ed eretici, l'urlo dei graffiti». E questo titolo mi ha fatto pensare all'urlo di Gesù sulla croce. I tre Vangeli, i primi tre Vangeli ci dicono che Gesù, prima di ispirare, dà un grido e esclama le parole del Salmo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Veramente è una testimonianza molto profonda, molto impressionante. Dopodiché, il 28 ottobre del 1591, Giacomo Bruto compare in un'auto da fè nella piazza Bologna a Palermo e fu arso vivo. Sapete che gli auto da fè, cioè gli atti di fede, erano dei rituali molto impressionanti, perché venivano raccolti tutti i condannati per i quali doveva essere eseguita la pena. Era una celebrazione anche molto lunga, venivano lette tutte le accuse, si celebrava una messa, ognuno di loro poi portava un vestito con delle raffigurazioni in base alla pena che gli era stata comminata. Questo è un dipinto del Goya, no, forse del Velázquez, su un'auto da fè. Ecco, ho trovato questo documento, che è una delle poche testimonianze dei registri dell'Inquisizione che sono stati pubblicati, e è stato pubblicato la prima volta nel 1882. C'è un elenco in ordine alfabetico con tutti i nomi degli eretici siciliani o che si trovavano in Sicilia sottoposti a giudizio dell'Inquisizione, e al numero 321 troviamo Isola Bella. Probabilmente Giacomo Bruto fu catturato sull'Isola Bella, che si trova di fronte Taormina. Dice Giacomo Bruto: preste piamontese, luterano, fu ammesso a riconciliazione a 11 settembre 1589 nella sala del segreto e poi nella piazza degli Bologni a 18 ottobre 1589. Abiurò pubblicamente, fu condannato in galera. Essendo in galera, inviò uno scritto nel quale confessava tenere tutti gli errori di Lutero, e la biura l'aveva fatto per timore ed era pronto a mettere la vita per quelli. Onde, preso dal Santo Ufficio ed esaminata la sua causa, si lesse la sua sentenza di rilassazione nella piazza Bologna 28 ottobre 1591. Io mi fermo qui, il tempo, l'ora è tarda, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.